si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Uptown funk you up, uptown funk you up. Cause uptown funk don't give it to you. Cause uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Buongiorno a tutti cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini e buona domenica. E allora, quando sono le 8:34 minuti di domenica mattina inizia una nuova puntata in diretta. Torniamo in diretta dopo una pausa di ieri. Di Si può fare. Milano Monterosa, Carlo. Piova. Ho detto piova? Pioggia, piove. Piove. Però si sapeva che oggi avrebbe piovuto. Speriamo che poi torni il bello, perché ormai non era arrivata l'estate. Butta male. È andata, poi è ritornata. Ma rinfresca, abbassa il PM10, fa bene all'ambiente, siamo tutti contenti, giusto? Comunque noi abbiamo sempre tante buone notizie, naturalmente. Una di queste è che piove. No, un'altra è che è stata approvata la legge sulla riforma del terzo settore. Non ne parleremo nella puntata di oggi, avremmo voluto magari parlarne ieri se non fossimo stati registrati, ma ne parleremo, vi racconteremo gli sviluppi di questo importante, perché insomma i volontari, 8 milioni di volontari in Italia, e sono spesso i protagonisti anche delle nostre domeniche, dei nostri sabati mattina. Abbiamo scelto un bacino bello ampio, infatti, sì. Apposta, non è che siamo andati a cercarci una nicchia. 800 24 00 24, vi aspettiamo anche questa domenica mattina per stare insieme a noi, per raccontarci le vostre buone notizie e per giocare, cercare il nostro personaggio della settimana. Tutte le settimane cerchiamo un personaggio che ha una notizia legata a questa settimana. E il primo indizio che vi vado a dare, cari ascoltatori, è questo: è un vincitore. Il personaggio che cerchiamo è un vincitore. Cercate qualcosa che è stato vinto. Viene da ridere perché ce ne sono. Vabbè, 800 24. Non si commentano gli indizi, sono come le sentenze, non si commentano. Esatto. E come sempre, anche oggi in palio i biglietti e il catalogo della mostra di Miro allo splendido MUDEC di Milano. Possiamo iniziare? Andiamo. Certo che sì. L'immagine più efficace che mi viene in mente della politica italiana di questi anni è il wrestling. Avete visto quando fanno finta di darci delle botte pazzesche? Poi si rimettono su e sono sempre i soliti perfetti, perché è una grande finta. E allora, o lui non fa politica oppure fa finta anche lui, cioè, È una bellissima immagine però quella che ha dato, sì, Renzi del wrestling, cioè dicendo di persone che si danno botte da Orbi e possibilmente in televisione ne le vediamo, però poi stanno tutti in piedi, nel senso che sono sempre gli stessi. Ammetto che non mi sembra cambiata la situazione, però chi ha visto l'immagine è bella. House of Cards sa molto bene di cosa stiamo parlando. Sono anni che i più attenti avevano questo sospetto, ma insomma sulla riforma costituzionale, perché di questo andava parlando Renzi, che ha ribadito: se non vinco il referendum a ottobre mi dimetto, è intervenuto il buon Enrico Mentana, che insomma, sentiamo cosa ha detto. Si è tornati, come per un riflesso condizionato, a discutere della riforma istituzionale, ma allora si vota sì al referendum di ottobre, se cambia la legge dell'Italicum, tutte queste cose che sono surreali, l'ho già detto nei giorni scorsi, e soprattutto perché manca un fracco di tempo. Come sempre, l'ho sentita in diretta e anch'io mi sono molto stupito sull'espressione fracco, soprattutto. Non sul resto, no, ma sul fracco. No, però se posso dire una cosa sulla questione Renzi, personalmente quello che penso è che è vero, intanto manca un sacco di tempo, però sul referendum è positivo che ci si possa esprimere. Io non condivido tanto che si possa esprimere in un unico modo, ovvero o tutte le riforme sì o tutte le riforme no, perché sarebbe bello poter discutere, uno può volere una riforma sì e un'altra no, e soprattutto io non condivido il fatto di mettere sulla bilancia del referendum le proprie dimissioni, nel senso che uno può decidere che questa riforma gli fa schifo e non la vuole, ma non deve per forza essere obbligato a mandare a casa il governo, o viceversa uno invece dice: a me questa cosa della riforma va bene. Sennò come sempre si discute in realtà di chi deve stare al potere, di chi deve stare al governo, e non della nostra Costituzione. La Costituzione è un po' troppo importante per farla diventare semplicemente un derby pro o contro Renzi. Come mi sei politologo questa mattina, però, bello perché l'ho scritto anche su Vanity Fair, forse per questo ero preparato. Sentiamo Berlusconi. Meloni che alla presentazione della candidatura di Alfio Marchini a Roma, a candidatura sulla quale alla fine converge buona parte del centrodestra, Lega esclusa, che parla di come Renzi abbia occupato la RAI. L'ultima cosa che ha occupato è la RAI, e voi lo sapete bene, voi che ci siete dentro. Guai se Berlusconi avesse fatto la metà di quello che ha fatto Renzi con la RAI, sarebbe successa la rivoluzione. Dice: io non ho mai chiamato in RAI per allontanare nessuno, non c'è stato bisogno. Ma l'editto bulgaro, si allontanavano da soli, l'editto bulgaro evidentemente no. Però perché lui ha negato anche l'editto bulgaro, sì. e ne ha dato un'altra versione. Credo che Berlusconi non vedesse l'ora di dire a qualcuno hai occupato militarmente la RAI, visto che glielo dissero a lui nel 2002 tante volte. Esatto. Ma sulla RAI questa settimana la questione riguarda il cast di Romanzo Familiare, la fiction che sarà diretta da Francesca Archibugi, e una collaboratrice della produzione scriveva su Facebook: cercasi ragazzo di 15-18 anni, nano o con altra disabilità, che trasmetta tenerezza. Apriti cielo, cielissimo. Direi. E questo è Gianluca Nicoletti, padre di Tommy, ragazzo autistico, che come sappiamo bene noi di Radio 24, perché Nicoletti è con noi da tanti anni, sta facendo proprio una campagna seria, ma non seriosa, sulla disabilità. E insomma, sei un po' volato, sentiamo. Il nostro grido di apertura e di amicizia verso chi fa il casting per disabili che ispirano tenerezza è espresso in questo cartello, pensato e coniato da questo tenero disabile. Casting disabili, tenerezza, sto cazzo, dillo Tommy. Calcio. Bravo. Sì, diciamo che se possiamo dirlo con una battuta, la fiction si chiama Romanzo Familiare, il casting è criminale, non c'è dubbio. E va bene, 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi ricordo che cerchiamo un personaggio della settimana che è un vincitore. Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say. What, what, what did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Con questa telephone Lady Gaga, niente proprio di meno che Beyoncé, le nostre scelte musicali sempre grazie al nostro Andrea Piana, poi le ritrovate, che salutiamo il lunedì mattina sulla pagina di Si può fare sul sito di Radio 24, ci sono tutte le playlist delle puntate. Parliamo proprio di questo perché, cari ascoltatori, insomma, è uscito il primo studio sulla, vediamo se lo pronuncio bene, nomofobia, no mobile phone fobia, cioè la paura che tu hai, Carlo, tantissimo, certo. Lo so, te lo leggo negli occhi, di rimanere senza telefono, senza connessione. Ma scusami, senza... perché io andavo su omofobia, quindi figurati. Vabbè, perché... ma sei fissato, Carlo. Ma non è che sono fissato, omofobia, perché bisogna dire che fobia scritto col PH, questo sì. È come se fosse phone. La paura di rimanere senza smartphone, uno studio compiuto dall'Associazione Donne Medico di Pavia, preoccupate soprattutto dei più giovani, giovanissimi, che ammettono, insomma, già i ragazzi tra la quarta elementare e la prima media hanno quasi tutti il telefonino, quarta elementare. Vuol dire 10 anni, giusto? 9-10 anni, sì. E poi metà di questi ragazzi ammette di avere mal di testa associati all'uso del telefonino, dei tablet, degli smartphone. Attacca allora. Com'è? No. Ma non si può, perché bisogna stare mal di testa. Attaccati fino all'ultimo per parlare, per chattare con i propri amici e compagni. Ma a fronte di tutto questo c'è un'iniziativa che viene da Torino, ne parliamo con il suo promotore Fabrizio Cardamone, uno dei soci di una hamburgeria di Torino. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Che ha deciso di fare che cosa, Cardamone? Allora, noi abbiamo deciso di spostare l'attenzione dei nostri clienti dai loro smartphone a quello che noi gli diamo da mangiare, ai nostri panini. Cioè, guardate dentro il piatto e non guardate lo smartphone, almeno mentre mangiate. Anche perché sennò come giustificare i prezzi altissimi? No, sto scherzando. No, sì. Sa com'è? Tutto parte dall'attenzione che noi mettiamo nei nostri panini. L'attenzione che ci mettono i ragazzi a fare, tentare di dare alla clientela un ottimo prodotto. Certo. Siamo resi conto che però tutta questa attenzione, questa cura, le materie prime, tutte quelle menate lì veniva tutto vanificato dagli smartphone, da questo gesto del dito che scorre lo smartphone e se ne frega di quello che c'è. Assolutamente sì, ed era una cosa incredibile. Poi, cioè, noi spesso dalla cassa oppure camminando per locali vedevamo che ci sono delle persone che concentrate sul cellulare. No, magari mangiavano qualcosa che non era quello che avevano ordinato, però non manco se ne accorgevano. No, assolutamente. Però questo succede anche quando a volte uno è da solo e mangia leggendo il giornale. Certamente. Quindi... Però non ce la siamo sentita di vietare la stampa anche. Quella non ce la siamo sentita. Certamente ci abbiamo creato questa scatola dove noi proponiamo ai nostri clienti, ovviamente per chi vuole, di riporre il loro cellulare, sì. E poi lo chiudiamo con un lucchetto. Questa scatola la chiudiamo con un lucchetto, la chiave la teniamo. La chiave viene buttata via, naturalmente, gettata nel fiume. Ecco. Ma poi ognuno si riprende il proprio telefonino o poi si va nello scatolone e si può pescare quello che si vuole? No, i clienti poi vogliono loro. Vogliono proprio loro. No, e quindi vediamo noi questi clienti che vanno al tavolo con questa scatola, perché la cosa divertente è che il cellulare non lo teniamo noi, loro tengono la scatola col cellulare dentro lucchettato. E poi è simpatico perché magari decidono di fare questa scelta, iniziano a mangiare, il cellulare dentro l'hanno suona. Magari acceso, suona, allora tentano di aprirlo, tentano di capire chi poteva essere, quindi nascono discorsi, così, oppure corrono in cassa velocissimi chiedendo di aver sbagliato, che devono aspettare una telefonata importantissima, chiedono di poter aprire di nuovo la scatola. E in quel caso cosa succede? Quel caso gliela apriamo, ma gli ritiriamo i dolci che gli abbiamo messo nella scatola, perché il cellulare è in mezzo ad una montagna di biscotti. Prima di finire il pranzo richiedono così, gli daremo i biscotti. Meglio il diabete della dipendenza da smartphone. Ci fermiamo un attimo per il traffico. Cardamone, resti con noi, poi torniamo a Torino a raccontare questa esperienza, questa mini esperienza che tra l'altro volete estendere, perché siete una catena, anche in altre città italiane. Quindi attenzione. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Cari ascoltatori, 800 24 00 24, anche voi siete vittime della dipendenza da smartphone? I sintomi sono: stai male se in un locale non c'è campo, oppure vai a casa di corsa se il telefono si sta scaricando perché devi assolutamente ricaricare la batteria. Carlo annuisce. Io i sintomi ce li ho assolutamente. Ma perché poi, quando esci di casa, se esci di casa anche solamente un attimo e dimentichi dentro il telefonino, torni subito indietro. Non ti viene perlomeno l'idea di dire porca miseria, se magari mi stanno cercando? È folle, perché fino all'altro volte, ieri uscivamo di casa senza telefono. Io però a volte mi diverto a fare questo esperimento. Magari è l'ora di cena, chiama qualcuno, io volutamente non rispondo. Mia moglie si preoccupa, vai, corri, vai allo smartphone. No, scusa, sto cenando, è l'ora di cena, perché mi devono chiamare alle 8:15? Rispondo dopo, tanto il più delle volte sono chiamate, possiamo dirlo, rimandabili. Rimandabili, quindi, certo. Cari ascoltatori, se volete fare questo esperimento, potete andare alle Hamburgeria Italy di Torino, ma anche in quelle di quale altre città, Cardamone, volete fare lo stesso esperimento? Allora, ovviamente faremo questo esperimento nella nostra hamburgeria di Settimo Torinese, Bergamo, Milano, in Piazza San Babila, Verona, Parma e Roma. Ecco, quindi l'esperimento, perché voi a Torino siete già partiti, invece nelle altre città siamo partiti un paio di settimane fa. Nelle altre città è ancora da mettere in piedi. Le stiamo costruendo. C'è qualche piccola resistenza, i commessi sono tutti dipendenti da smartphone e non vogliono assolutamente cedere. Ma quello che mi chiedo è obbligatorio oppure è una scelta? No, è una scelta. Quindi non è che uno viene da voi dicendo perché così so, perché ammetto, forse dico una cosa ancora più vigliacca, nel senso che più che secondo me essere molto attenti al telefonino, a volte è molto fastidioso quando sei a mangiare e tutti altri tavoli stanno parlando al telefono e quindi ti senti i fatti di chiunque in un momento in cui in realtà forse vuoi stare semplicemente a chiacchierare cenando o pranzando. Ma infatti è proprio questa la questione, che due aspetti: uno, la concentrazione, si perde la vista, la concentrazione su quello che si mangia; l'altro invece si perde poi la relazione, il momento di condivisione con chi ci sta di fronte. È capitato, perché poi ahimè noi siamo lì e quindi qualche discorso lo sentiamo, magari di vedere delle coppie che magari per 20 minuti hanno smanettato sullo smartphone uno e l'altro e non si sono parlati. Poi l'unica cosa che si sentono è: guarda, ho chattato con Marco che sta a New York, dall'altra parte del mondo, mi ha detto che, ah sì, mi ho sentito anche. In sostanza si parlava con le persone dall'altra parte del mondo e spesso non ci si parla con quello che si ha di fronte. Cioè, però quindi... le svelo un segreto, a volte sì. Quando si è al ristorante magari due, uno dice, ma guarda, non parlano nemmeno, si mandano solo dei messaggini, quando avviene questo a volte stanno parlando male del ristorante, perché quello non si può fare ad alta voce, e quindi uno dice, abbiamo proprio sbagliato posto, e manda un messaggino all'altro che gli sta a 7 centimetri. Ovviamente non c'è un riferimento al suo locale, ci mancherebbe. Ed è per quello che gli leviamo lo smartphone. Infatti forse è per quello che lo fate, perché sennò sono tutti lì a dire, ma a me sembra troppo cotto questo hamburger. No, fortunatamente questi rischi non li corriamo. Però tornando alla tua domanda di prima, no, non è assolutamente obbligatorio, tanto che noi queste scatole le abbiamo messe in bella vista nei pressi della cassa, e i primi giorni hanno suscitato interesse, c'è un cartello, ma noi non le spingiamo neanche, c'è un cartello che spiega che cosa sono, ci sono questi lucchetti colorati che la gente si incuriosisce, e poi da lì è partito tutto. Certo. E a conferma di quello che avete detto voi prima, il servizio, l'iniziativa è apprezzata maggiormente dalle famiglie, quelle con mamma, papà e due figli adolescenti. Dove certo. La mamma arriva, dove lì è veramente una tortura avere i figli che siano attaccati allo smartphone. Scatola e obbliga i figli che tentano in tutti i modi, si negano, scappano così, di riporre lo smartphone. Che poi i figli, da dove vuoi che abbiano imparato, dai genitori. Ma statisticamente, quante sono le persone che accettano di fare a questo esperimento, che è anche un gioco, no? Possiamo dirlo? No, assolutamente, mediamente. È visto come gioco. Considerate che noi i pranzi durante la settimana abbiamo molta clientela che lavora, e quindi questa cosa funziona poco, perché ovviamente la gente poi lavora, poi magari qualche telefonata ce l'ha di lavoro. Che di nuovo è il concetto in realtà di cui parlavamo prima, perché sarebbe molto sano che quando è pausa, è pausa. È complessa, esatto. Invece la sera, noi abbiamo la sera, ogni sera una decina di gruppi, di persone, di signori si prestano a questo gioco. Ovviamente nel weekend salgono molto, soprattutto con le famiglie, pranzo e cena, questo viene tanto che... È molto sentita questa cosa, tanto che le scatole le stiamo aggiungendo sia a Torino, e ne faremo di più. Dovete fare gli ordini. Le faccio un'ultima domanda, ma e se uno, siccome ormai i telefonini ne abbiamo due a testa, se uno arriva col telefonino e uno lo mette nella scatola per avere la sua scatola di biscotti e l'altro lo tiene per giocare, vale? Vale, però è capitato di un gruppo. Non possiamo ancora fare la perquisizione, diciamo, corporale. Però non fate troppo i furbi alle hamburgerie Italy di Torino, perché altrimenti non è giusto. Grazie Cardavone, grazie mille. E complimenti per l'iniziativa. Beh, insomma. Ogni tanto fate a meno dello smartphone. Lo dai. So che vuoi che io metta il mio smartphone dentro nella scatola qua col lucchetto, ma non lo metterò. Lo faremo anche a Radio 24. Intanto, ascoltatori, all'800 24 00 24 ci ha chiamato Roberto da Monza. Buongiorno. Oh, da Lissone, ragazzi. Vabbè, scusa, da Lissone. L'appuntamento settimanale per me. Bene. Cosa volevi dirci, Roberto? Mi sentite bene? Sì. In macchina, sì, ecco. Io so già di... Però si fermi se in macchina. Donald Trump. Lo so che non è lui il personaggio. Certo, il personaggio, perfetto. Perché? Diciamo perché Donald Trump? Qual è la notizia? Ha vinto, ha vinto praticamente lì le cose lì in America. Sì, sì. Le primarie. Non sono ancora finite, ma di fatto ha avuto i voti necessari, esatto, per avere ormai è passato la nomination. Quindi assolutamente tutta la vita personaggio, ma non era lui. Non era lui. Era forse un po' troppo facile. Era un bel trappolone e infatti Roberto ci è caduto, ma va bene così. Perché... O forse che nella nostra testa Donald Trump è un non si può fare? Abbiamo Wanda che chiama da Genova, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sì. Per il personaggio della settimana ho pensato che possa essere la Rinascente di Milano che ha vinto il premio come miglior store del mondo. Ah, però, io questo... Ti dico la verità, non la sapevo. Infatti non eravamo arrivati fin là con il nostro riepilogo delle notizie settimanali e non è questo il personaggio, Wanda. Però è bello, ce la dici meglio sta notizia, Wanda? Ma l'ho sentita, sì. L'ho vista ieri sul Sole 24 Ore, sì. E avevo avuto il giorno prima la mail da parte della Rinascente, perché sono cliente e ricevo, sì, le newsletter. Ah. E ho letto appunto che c'è un'associazione internazionale che premia il miglior store del mondo in base a tutta una serie e ce l'abbiamo di qua a Milano. Tipo l'accoglienza, l'innovazione, i punti vendita, e l'ha vinto la Rinascente di Milano. Benissimo, grazie. Grazie mille. Adesso sappiamo anche questa notizia qua. Beh, la Rinascente è un posto storico, il nome lo diede D'Annunzio. Allora, stamattina siamo dati appuntamento tutte le Wanda d'Italia, perché adesso dopo Wanda da Genova chiama anche Wanda da Napoli. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Wanda. Siete simpaticissimi. Grazie. Volevo esprimere la mia opinione, cioè praticamente è una cosa facilissima la mia, quindi non sarà quella. Secondo me è Alice Baba. E nella persona di? Specificavo meglio questa notizia? Che ha vinto il The Voice of Italy, il talent che hanno tenuto su Rai 2, sia appunto Rai 2. Beh, è una vincitrice, la sicuramente, c'è. La notizia c'è, cos'altro possiamo aggiungere, Carlo? Niente. Che non è il personaggio che avevamo scelto, ma che siamo contenti di aver ricordato questa notizia. Complimenti Wanda, grazie anche per averci chiamato. Allora, intanto ti dico, sì, ci è arrivato un sms per precisare dopo abbiamo sbagliato qualcosa. No, da anni alla trattoria Petronilla Rubiera a Mo, in provincia di Modena, si, sì, lascia il cellulare in un casellario con chiave all'entrata e si cena senza, mi sembrava giusto, comunicarlo. Io lo sapevo che da qualche altra parte lo facevano, ma c'era anche un posto bello. Dove consegnavi il telefonino, ma se lo richiedevi prima della fine pagavi il conto di tutto il tavolo. 800 24 00 24, ascoltatori, vi aspettiamo anche per indovinare il personaggio della settimana che andiamo cercando e che è un vincitore. E poi ti ricordi, Carlo, la storia del castello di San Mezzano che avevamo invitato qua a parlare con noi perché avevano fatto un crowdfunding e una pagina Facebook per salvare il castello? Certo. Ci sono delle novità, si sono associati alla campagna I luoghi del cuore del FAI, quindi andate sul sito del FAI, scegliete San Mezzano, andate a cercare la pagina Facebook, firmate la petizione perché gli amici cittadini di San Mezzano stanno cercando di dare nuova vita a questo luogo meraviglioso e hanno bisogno del vostro aiuto. Ci risentiamo dopo il GR. Il segnale orario vi è offerto da Cordialissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi e buongiorno da Carlo Gabardini. cari ascoltatori, ben ritrovati, vi aspettiamo all'800 24 00 24 perché stiamo cercando un personaggio. Personaggio della settimana. C'è una notizia che riguarda questo personaggio, il primo indizio che vi abbiamo dato è che è un vincitore. Devo dare il secondo indizio? No, no, devo aspettare. Sì, sì, sì, ancora no, non siamo troppo generosi, non siamo troppo generosi. Abbiamo chiuso rilanciando l'appello, lo voglio ridire, per il castello di San Mezzano, ne avevamo parlato anche da questi microfoni, l'iniziativa per, da parte di alcuni cittadini per salvare dal degrado o dalla vendita, perché c'è stata una asta per privati di questo bene straordinario, basta andare su Google e vedere le immagini, è bellissimo, stupendo, vero? È veramente un gioiello italiano, ci sono già molte firme per salvare San Mezzano, adesso gli amici che vogliono salvare questo gioiello italiano si sono messi all'interno della campagna Loghi del Cuore FAI 2016, quindi potete andare anche sul sito del FAI, trovare questa iniziativa e sostenerla, perché loro hanno sicuramente bisogno del vostro aiuto. E allora, facciamo qualche notizia o abbiamo gli ascoltatori? Abbiamo gli ascoltatori? Abbiamo gli ascoltatori. Direi di sì. Allora, Paolo da Roma. Paola, anzi, da Roma. Buongiorno. Paola, sì. Buongiorno. Benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Il mio personaggio, Censo Nibali. Sì. Qual è la notizia legata a Nibali? Che ha vinto la maglia rosa e perciò il Giro d'Italia. Sì, oggi praticamente la notizia è stupenda perché Nibali sembrava fuori dai giochi e invece ha fatto una settimana pazzesca. Ieri ha vinto la crono, se non dico bene? Ha vinto la tappa e ha praticamente stracciato. Non ha vinto la tappa, in realtà ha dato 44 secondi, quindi è primissimo. Oggi c'è l'arrivo e dovrebbe vincere il Giro d'Italia in maglia rosa. La notizia è bellissima. Sì. Purtroppo il personaggio che avevamo scelto non era lui. Esatto, però la ringraziamo molto d'aver chiamato. Chiedo venia anche per il mio errore, ieri sono stato un po' distratto perché ero impegnato in un matrimonio, sai, quelle cose che ti assorbono e completamente poi perdi i riferimenti. 800 24 00 24 è un altro il personaggio che andiamo cercando e che è un vincitore. Adesso notizie della settimana, il botta e risposta tra Napolitano e Salvini. Noi abbiamo in Italia il fenomeno della Lega, oggi è diventato la principale espressione in Italia di posizioni xenofobe, di posizioni nazionalistiche, di posizioni anti-elitarie, anti-istituzionali. È imbarazzante pensare che sia stato Presidente della Repubblica, ancora più imbarazzante pensare che sia Presidente emerito. È il padre adottivo di Renzi, è l'inventore di Renzi, quindi abbia il pudore di tacere. Che dire? Vabbè. Beh, mi sembra strano dire, la questione dell'imbarazzante mi fa molto ridere, nel senso che tutti i presidenti della Repubblica diventano presidenti emeriti, quindi non è esattamente una particolarità di Napolitano. Peraltro Napolitano è l'unico presidente che l'ha fatto due volte, quindi più emerito di lui, direi che proprio non ci siano dubbi. E non capisco tanto Salvini che si offende perché Napolitano dice che la Lega è xenofoba, la xenofobia è la paura dello straniero. Beh, direi che la Lega un pochino ce l'ha la paura dello straniero, no? Beh, insomma, un po' di campagna elettorale su questo tema. Ma al di là della campagna elettorale, nel senso che paura dello straniero, mi sembra che ce l'abbiano. E però l'amico di Salvini, Donald Trump, ha vinto la nomination praticamente. Non è ufficiale, ma ci siamo quasi. A proposito di imbarazzante, volevi dire? No, a proposito di amici, amici degli amici, l'amico di Salvini, Donald Trump. E però Barack Obama, in campagna elettorale anche lui naturalmente, al vertice G7, fa una dichiarazione e dice: i leader mondiali sono scossi da Trump perché ha delle posizioni e ha fatto delle proposte che dimostrano la sua ignoranza degli affari internazionali. Mettiamola un po' sta vocetta. I think it's fair to say that they are surprised by the Republican nominee, and for good reason, because a lot of the proposals that he's made display either ignorance of world affairs. Diciamo che Trump, perlomeno sul punto di vista della comunicazione, è piuttosto bravo. Infatti ha risposto dicendo: beh, se tutti i leader mondiali sono scossi, bene così. L'ha girata a suo favore. 800 24 00 24. Maria Vittoria chiama da Sassari. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Tutto bene da voi? Qui tutto bene, piove ma si sta bene. Lì? Benissimo, qui il cielo è grigio ma non piove. Ottimo. In Sardegna siete sempre un passo avanti. Ah sì. Maria Vittoria, su cosa voleva intervenire? Il personaggio della settimana. Prego, siamo tutti orecchi. Chi è? Allora, credo che sia il vincitore del premio Campiello, che ha vinto un premio come opera prima, sì, per un libro col dal titolo La teologia del cinghiale. Assolutamente, nel nome la persona che ci dica. Allora, si chiama Matteo Locci. Matteo Locci, che ha vinto il Campiello. È un vincitore, è sicuramente un vincitore, è una bellissima notizia importante della quale siamo contenti, ma non era il personaggio che abbiamo scelto per questa domenica. Eh no, Maria Vittoria, grazie comunque. Grazie comunque per aver chiamato. E così abbiamo ricordato anche il Campiello. Andate in libreria e comprate tanti libri, non solo quello di Matteo Locci. Adesso... Pensavo dicessi non solo quello di Carlo Gabardini. No, beh, questo. ma mai nella vita, mai nella vita. Aggiungiamo un indizio, Carlo. A questo punto sì. Assolutamente. Il secondo indizio è: il nostro personaggio è accogliente. Quindi è un vincitore e accogliente. Questo è un indizio che va un po' interpretato. Dai, ascoltatori, forza, 800 24 00 24, traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. C'è una luna a mezzumare, mamma mia, mamma di dare. Figlia mia, cosa dare, mamma mia, pensacci a tu. Se te figlia lo pesce, io le vai, svene, se lo pesce, manatena. Se ci ingappa la fantasia dei pesciole a vecchiozza mia, la la riola, pesce fritta e baccalà, uè gomba, no calamara c'ha giaccata. Second stanza. C'è una luna a mezzumare, mamma mia, mamma ridare. Figlia mia, cosa dare, mamma mia, pensaccia tu. Se te piglia la polizia, isso vai, isso viene, siamo scoppetta manatena. Se ci ingappa la fantasia di scoppettia, figliuzza mia. Vabbè, io l'avrei ascoltata tutta, Vero. In questa domenica piovosa sarei andato avanti così tranquillamente per un quarto d'ora. Parliamo di mare e di pesce, di pesca possibilmente sostenibile, perché non lo è. Quella del tonno lo denuncia Greenpeace da tempo. È con noi Giorgia Monti della campagna mare di Greenpeace Italia. Buongiorno e buona domenica. Buongiorno a voi. Buongiorno. Perché non è sostenibile la pesca al tonno che fanno i principali, e qui però ce l'avete con la più grande forse, perché sono multinazionali quelle che fanno la pesca, vero? Esatto, cioè il tonno, del tonno partecipa appunto la pesca a moltissime aziende, e ci sono alcune aziende multinazionali che coprono quasi un quinto di tutti i prodotti tonno distribuiti al mondo. Ecco, a questi colossi, a questi leader, noi chiediamo di esserlo anche nella sostenibilità, perché purtroppo, come dicevate voi, la pesca al tonno, ricordiamolo, tropicale, perché quello che finisce nelle nostre scatolette viene dall'Oceano Indiano, dall'Atlantico, dal Pacifico, purtroppo non dal nostro Mediterraneo. Dico purtroppo perché molti sanno la sorte che ha avuto il tonno rosso. Ricordiamolo, Giorgio. Esatto, sì, il tonno rosso è stato pescato oltre i limiti, arrivando a un punto tale che si è dimezzata la pesca e ormai è quasi introvabile, no, nei nostri prodotti. Adesso pian piano si sta vedendo che con delle misure che stanno funzionando di limiti della pesca si sta riprendendo. Ecco, noi vorremmo che non succedesse lo stesso. Ecco, è proprio questo l'errore, no? Che si compie, esatto, con questo tipo di pesca, che si danneggia, troppo. Si pesca troppo. Esatto, si pesca troppo e si pesca male, con dei metodi di pesca che sono pochi o selettivi. Il grande problema adesso, per esempio, è quello della pesca con grandi pescherecci industriali che utilizzano i SAD, si chiamano così, ma sono dei sistemi di aggregazione per pesce, dei grandi zatteroni che concentrano sotto di sé i tonni e non solo, e poi quando si gettano le reti si prende tutto insieme, tra cui squali e altri animali marini, e si rigetta ciò che, tra virgolette, non serve in mare. Noi siamo adesso in Oceano Indiano con una delle nostre navi proprio per fermare questo tipo di pesca e per chiedere alle più grandi aziende a livello mondiale di smetterla di distruggere il nostro mare e poi con questo anche il loro futuro, dobbiamo dirlo, perché in fondo loro vivono del tonno e se distruggono le loro risorse non c'è un futuro né per loro né per i nostri mari. Certo, immagino che una delle loro risposte sia che con questo metodo di pesca che è orrendo e disumano si riesce a tenere basso il prezzo del tonno, suppongo, o sbaglio? Sì e no. E tra l'altro noi diciamo, perché i mercati oscillano ovviamente, il punto è che secondo me le aziende, così come noi consumatori, devo ammetterlo, siamo noi i primi, dobbiamo iniziare a dare un valore alla sostenibilità. Ecco, comprare certo. Una scatoletta di tonno che costa pochissimo forse non è il futuro, perché il dubbio viene da dove arriva, come è stato pescato, c'è di mezzo anche la pesca illegale. Ecco, forse spendere un pochino di più per un prodotto che è garantito da un punto di vista di sostenibilità ambientale e anche sociale, devo dire, perché adesso c'è anche la grande problematica che molti di questi prodotti, venendo magari da industrie basate in Asia, non hanno ovviamente gli stessi standard dei diritti dei lavoratori che magari abbiamo noi. Ecco, questo valore aggiunto si paga, però si dà una garanzia e si dà anche un futuro al mare. Lei ha ragionissimo in questo, devo ammettere che però poi quando ci si ritrova nello scaffale del supermercato e c'è la scatoletta da 70 centesimi oppure il vasetto da 4,70 euro, è difficile scegliere per il vasetto da 4,70 euro, soprattutto perché uno non ha mai la certezza che poi nel vasetto da 4,70 ci sia tutta questa cosa che giustamente sta raccontando lei e invece non sia anche quello lì un tonno ammazzato male. Io voglio lanciare un messaggio positivo, perché poi i consumatori in Italia, io oltre 5 anni che faccio questa campagna, ci hanno aiutato certo. E hanno creato un grande cambiamento. Prima di tutto informarsi, noi siamo riusciti grazie a chi ci aiuta, ai consumatori, a chi ci supporta, a ottenere che adesso sui vasetti almeno ci sia scritto la specie e l'area di pesca. Questo almeno ci dà un'idea di dove arriva quel tonno e come sta quella popolazione di tonno. Stiamo chiedendo, sempre di più lo stanno facendo, di mettere il metodo di pesca. Ecco, prima di mettere una scatoletta guardiamo il prezzo, ma leggiamo anche le informazioni e diamo anche un messaggio, perché adesso da 2 o 3 anni in Italia, anche in Italia rispetto magari ai mercati esteri che sono più avanti, si può comprare per esempio il tonnetto striato, che è una specie di tonno magari un po' meno pregiata ma in condizioni migliori, pescato a canna. Ecco, quel prodotto che vuol dire in realtà, a canna, intendiamo proprio confrontarlo. È il migliore, se andiamo sì. A confrontarlo, vi assicuro, guardate al supermercato, non costa tanto di più. Ma cosa vuol dire, Giorgia, pescato a canna? Perché noi non siamo espertissimi della canna. Pescato a canna può anche, insomma, lasciare immaginare, praticamente un metodo di pesca dove i pescatori pescano i tonni uno per uno, quindi molto più selettivo, così pescano solo gli esemplari grandi, utilizzano imbarcazioni più piccole, quindi sono anche flotte più piccole come quelle delle Maldive o delle Azzorre, e quindi che garantiscono una sostenibilità ambientale ed anche sociale. Cioè la pesca, quella che si vede nei film, però quella... voglio anche il nome del pescatore a questo punto. Però vi invito ad andare sul nostro sito che è www.tonnoentrappola.it, dove non solo si possono trovare informazioni sui vari marchi, sui prodotti che vendono, noi abbiamo stilato una classifica che si chiama classifica rompiscatole, ecco, per aiutare il consumatore al supermercato, ma ci sono anche dei video molto interessanti che vi fanno vedere come funziona questa pesca. Tra l'altro, a proposito di trasparenza, Giorgia, voi ve la prendete in particolare contro una grande compagnia, la prima al mondo, la TAI Union, perché aveva fatto delle promesse, proprio perché ormai questa consapevolezza della sostenibilità che sta entrando anche nella testa dei consumatori evidentemente si sta trasferendo anche ai piani alti di queste multinazionali, però non va il comportamento che stanno avendo. Il punto è questo, che tra l'altro questa azienda che avete nominato voi ha un marchio anche sul nostro mercato. Ecco, Greenpeace è molto seria in questo, e quindi nel momento in cui, e questo parlo del marchio sul mercato italiano, fa la promessa di diventare sostenibile, quindi 100%, eliminare i FAD, avere questo tonno pescato a canna, utilizzare altri metodi sostenibili, tra l'altro entro la fine di quest'anno, e poi noi andiamo a vedere, facciamo le nostre ricerche, meno dell'1% in realtà è pescato in modo sostenibile, ci arrabbiamo, perché ci arrabbiano i consumatori. Allora, se si promette, poi le promesse si mantengono, soprattutto per serietà aziendale e per non diciamo così, un po' imbrogliare, no? Il certo. consumatore, ecco. Quindi questa è la ragione, per esempio, in Italia per cui stiamo facendo campagna contro, insomma, per convincere questo marchio che alle promesse devono seguire i fatti. Come dicevate voi, fa parte di una multinazionale grandissima. E il punto è questo: se i più grandi iniziano a cambiare, immaginerete voi che potremmo creare un cambiamento nell'industria. Purtroppo è da diversi mesi che noi abbiamo iniziato a chiedere a Thai Union di impegnarsi in questo modo, non ci ha risposto, nonostante, vorrei ricordare, oltre 400.000 persone in tutto il mondo hanno chiesto al loro organo direttivo veramente di intraprendere questa strada. Noi siamo entrati in azione perché mm-hmm. noi come Greenpeace ovviamente non possiamo rimanere a guardare, certo. siamo adesso in Oceano Indiano, come accennavo, con la nostra nave Speranza, per fermare le navi che pescano il tonno in maniera insostenibile per questo colosso. Siamo stati in Francia qualche giorno fa e abbiamo chiuso per un giorno uno delle loro fabbriche che manda prodotti tonno anche in Italia, e siamo stati in attività anche in Italia con i nostri volontari nei supermercati per, diciamo così, simbolicamente fermare poi le vendite per un giorno. Abbiamo vuotato gli scaffali e, diciamo così, portato in giro le scatolette per un giorno nel supermercato, in modo che, diciamo così, un consumatore ignaro non potesse prenderle e mettere nel proprio cartello. Vogliamo e giusto. Possiamo anche essere positivi, possiamo anche dire, dal vostro punto di vista, se c'è qualche marchio di tonno che è un po' meglio degli altri, perché devo dire, questa è una cosa che a me mi fa impazzire, perché è la concorrenza giustamente tra produttori ad abbassare il prezzo e ad accaparrarsi fette di mercato, che però è una concorrenza totalmente distruttiva del mare e del pesce, e tra un po' non ci sarà più tonno da pescare. È una cosa che bisogna fermarla, perché è una corsa a schiantarsi contro un muro. Giorgia, c'è qualche compagnia di cui possiamo fare anche il nome, anche facendo un po' di pubblicità, però che voi avete in qualche modo stabilito che fa una pesca più sostenibile? Nominiamo le compagnie buone. Ok, ma potevamo nominare anche quelle cattive, quindi. Certo, certo, prego, prego. Diciamo che c'è una classifica che avete fatto. Esatto, c'è una classifica e chi ci conosce va sul nostro sito, verrà ovviamente che il marchio con cui, diciamo così, siamo arrabbiati è Mari Blu, perché promette e non mantiene. Ci sono altre aziende ovviamente che vanno in alto, e una tra tutti può essere il nome di Asdomar, ma abbiamo anche delle catene di supermercato che invece iniziano a prendere degli impegni precisi e si sforzano per garantire che nei propri prodotti arrivi, ecco, il tonno pescato a canna, un tonno arrivato senza FAD, che ci sia una particolare attenzione alla tracciabilità. Quindi il messaggio è positivo. Se voi andate sulla nostra classifica ovviamente potrete vedere che ci sono dei marchi di tonno che potete appunto preferire, che anche tra i marchi di tonno magari tra virgolette meno bravi, perché magari noi politiche non le hanno ancora messe a punto, hanno però un'offerta, come dicevamo prima, di tonno pescato a canna che si può comprare. E devo dire che questo è importantissimo, perché noi abbiamo visto, io con queste aziende dialogo da quasi 10 anni, che nel momento in cui è al mercato il consumatore a fare la domanda, l'azienda cambia. Certo. Il timore all'inizio di dirmi ma il prodotto sostenibile, come dicevate voi, che costa un po' di più, ma è chiarissimo. La pesca a canna, chi capisce? Le aziende hanno visto, perché poi loro si muovono ovviamente sul beneficio economico, sui che numeri. Negli ultimi 3 anni e la richiesta di questi prodotti è aumentata e quindi loro stessi ne mettono di più sul mercato. Potrebbe essere questo il motivo per cui anche alcune catene di distribuzione che hanno i loro marchi sono, dicevi, tra quelle migliori. Forse questa è anche una novità un po' degli ultimi anni, no? Le catene, i marchi della distribuzione, sì, che hanno i loro prodotti, e in alcuni casi, per esempio per il tonno, sono migliori di altri. Sì, allora hai toccato un punto importantissimo, perché sempre di più, e l'avrete visto, no? Andando a fare la spesa, la parte del leone non la fa più quasi il marchio privato, ma il marchio del supermercato. Quindi le grandi catene di supermercati, come faccio un esempio, no? Carrefour è il più grande supermercato a livello europeo, forse il secondo a livello mondiale. Immaginatevi che potere di acquisto ha un po' su tutti i prodotti e quindi anche sul tonno. Se sono loro i primi a chiedere ai loro fornitori di avere sugli scaffali solo un certo tipo di tonno, ovviamente c'è un cambio enorme. E tra l'altro vorrei fare così un excursus internazionale, perché non esiste solo l'Italia, anche se noi siamo importanti, consumiamo oltre 140.000 tonnellate di tonno in scatola all'anno. Ecco, per esempio in Inghilterra, ecco, dove le più grandi catene di supermercati e marchi privati ormai si sono tutti impegnati e stanno rispettando il loro impegno di avere solo tonno sostenibile nelle loro scatolette. Ecco, negli ultimi mesi, proprio per aiutarci in questa campagna contro Thai Union, ci sono i due supermercati più grandi, tra cui Tesco, forse qualcuno che viaggia, ecco, lo conoscerà, sì, certo. È una catena di supermercati enorme. Ecco, lui ha preso un impegno ancora più grande, ha detto al marchio di Thai Union che si vende in Inghilterra: se entro i prossimi anni non garantirete che c'è solo tonno sostenibile, io lo tolgo dai miei scaffali. Bene. Quindi si va oltre il marchio proprio. Ecco, questa è un po' la direzione e il futuro che piacerebbe vedere anche a noi in Italia. Grazie Giorgio Monti, grazie mille. Torno in trappola, grazie. Liberiamolo, anche le catene di distribuzione che possono dire la loro sul mercato e che qualcosa già stanno facendo, che facciano un passo in più. Torno in trappola, liberiamolo. 800 24 00 24. Sentiamo un paio di ascoltatori prima di andare sulla pausa. Sì, Fabio da Trento, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ho pensato al nuovo presidente dell'Austria, Van den Bellen. Sì, il verde. Sì. Perché ha vinto le elezioni contro, diciamo, l'avversario che era contro l'accoglienza. Questa qui è una risposta. È un'ottima risposta. Un'ottima risposta. Fabio, eccezionale, perché è andato oltre tutto. Io glielo darei ad onorem, perché purtroppo non era quella giusta. Facciamo però così: se nessuno indovina, sì, secondo me vince Fabio assolutamente ad onorem. Non era il personaggio che abbiamo scelto. Siamo contenti di aver ricordato la notizia. Ha vinto pure per solo 35.000 voti. Quindi è accogliente in contrapposizione all'altro, che era sicuramente non accogliente. Era un altro il senso di accoglienza che avevamo pensato noi, però questa era una bellissima risposta. Luisa da Catania, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io dico Bartolo, non so l'accento, il medico di Lampedusa. Perché? È accogliente, più accogliente di lui non credo che possa essere. E qual è la notizia di questa settimana? Beh, la bambina. Certo, la bambina, vada, Luisa, perché noi vogliamo che lei racconti la notizia. Raccontiate, la domenica mattina, sì. La bambina? Ecco, è stata salvata una bambina di 9 mesi, che è rimasta orfana, i genitori sono morti nel naufragio, lui l'ha accolta, curata, e voleva adottarla, ma per motivi di età credo che non la faranno adottare, o perlomeno voleva... accudirla lui, la sua famiglia. Una notizia che ha commosso tantissimi, la foto della bambina di colore ha riempito molte pagine di giornali e anche i siti internet, in effetti, ed era una notizia che ci sta, anche questa, Carlo, potrebbe essere assolutamente un ad onore, non si ma può anche fare questa. È una notizia tragica che però ha un suo risvolto positivo. Ma non era la risposta esatta, non era quella la risposta. Alice, e chiudiamo da Gorgonzola prima di andare sulla pausa. Oh, buongiorno. Buongiorno Alice. Sono la solita Alice, tutte le domeniche chiamo, speriamo di aver vinto. È il nostro fucigliere Girone. Ma Marò non fa parte del cognome, No, non so, erano due Marò, i nostri fucilieri hanno vinto dopo 4 anni. Hanno vinto questa battaglia all'interno di una guerra più grande, ma accogliente perché? Perché il secondo indizio era che è accogliente. È stato molto accogliente. Ieri alle 6 a Ciampino c'erano le autorità. È stato accolto più che altro. E in effetti poteva essere un gioco di parole. Alice non era male. Carlo sta ridendo come un pazzo perché ha rigirato la parola a suo favore. Esatto. Anche esatto. Questo fa parte di essere ascoltatori attenti di Radio 24. E siamo contenti che abbia chiamato Alice. Siamo contenti che ci senta tutte le domeniche. Che chiami tutte le domeniche, perché non parliamo insieme tutte le domeniche. No, anche purtroppo, perché c'è un filtro, non si può chiamare, purtroppo, intervenire consecutivamente. Però continua a chiamarci, che prima o poi andrà bene. Non era il personaggio che abbiamo scelto, e non era quella l'accoglienza. È un vincitore accogliente che accoglie. Basta. fra poco diamo un altro indizio. Vuoi dare un altro indizio? Vuoi dire che i nostri personaggi non sono sempre per forza degli esseri umani? Lo vogliamo dire? Sì, non sempre lo sono. Proprio oggi potrebbe non esserlo. A volte sono dei concetti, a volte sono dei luoghi. si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, cari ascoltatori, nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Il nostro personaggio è accogliente, nel senso che accoglie, è un luogo che accoglie, è accogliente in quel senso, ed è un vincitore. Ho sentito la parola luogo che è entrata casualmente nel tuo microfono, Alessio. 800 24 00 24, i biglietti e il catalogo della mostra di Miró al Splendido Mudec di Milano vi aspetta, se indovinate il nostro personaggio della settimana. La bellezza, mi sentivo responsabile della bellezza del mondo. Volevo che le città fossero splendide, piene di luce, irrigate da acque limpide, popolate da esseri umani il cui corpo non fosse deturpato né dalla miseria né dalla schiavitù. Cerchiamo di entrare nella morte ad occhi aperti. E questo era il grandissimo Giorgio Albertazzi, immenso Giorgio Albertazzi, attore di tutto, insomma. Rappresentante forse di un po' di un teatro che non c'è più, questo va detto, ci ha lasciato a 92 anni. Quindi. Esatto, se dovessimo costruire un teatro ideale con le colonne del Novecento, ma non solo, lui sarebbe una di quelle proprio portanti. Ed era un omaggio a Giorgio Albertazzi e che dire? Niente. Niente. Che dire, ci spiace. Rinnoviamo l'indizio, il personaggio. Dai, cosa dobbiamo dire? Vuoi un terzo indizio? Lo diciamo? Vuoi un terzo indizio? Sì, perché sennò lo indovinano. Va bene, diciamo che il nostro personaggio avrà una bellissima pagina di Wikipedia. Bene, questa è grossa, questa è molto grossa. Separe, por favor. Todo el tiempo que perdí, no lo voy a repetir. No quiero ser igual a lo que fui. No miro más televisión, no hay nada para ver. Salgo a pasear, por la ciudad. Questa celebre canzone si chiama Graffiti Immigrantes, perché di questo parliamo, cari ascoltatori. I graffiti, questa è una sentenza della Cassazione che ci è piaciuta tantissimo, tantissimo, almeno a me, non sono reato se i muri sono già imbrattati. Già imbrattati in precedenza. E per estensione potremmo dire se fanno schifo, dai. Questo non lo so, perché sai, la legge è più precisetta, E allora chiediamolo all'avvocato che ha vinto questa causa, ma che è anche un writers, Domenico Melillo, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. In arte frode, come preferisci essere chiamato? Io sono in veste di avvocato adesso. Anche perché un avvocato che si chiama frode non è male. È un bel cortocircuito. La notizia non è di questa settimana. La settimana ce l'eravamo persa un po', sì, per strada. Però che cosa è accaduto qualche giorno fa? È una vicenda comunque che in realtà nasce alcuni anni fa, nel senso che il reato è stato commesso addirittura nel 2010. Poi la vicenda processuale invece si è conclusa. Si sa, i tempi della giustizia adesso, sono quelli che sono. Anche perché comunque avevo già fatto assolvere in primo grado, mano invisible. In secondo grado l'avevo fatto assolvere nuovamente, però la procura si era intestardita perché non voleva far passare questo principio, appunto, che si potesse dipingere un muro non autorizzato. Perché questa ormai fa giurisprudenza, giusto? È il primo precedente italiano in materia, sì, fa la giurisprudenza. Ecco, ma cosa vuol dire, come va interpretata questa sentenza? Perché se i muri sono già imbrattati, cioè se ci sono dei precedenti che cosa? Graffiti, scritte oscene, scritte... C'è un concetto anche estetico che allora, è discriminante? Prima di sbilanciarmi dovrei aspettare le motivazioni della sentenza che non abbiamo ancora ricevuto. Sì. Certo sono state accolte le nostre tesi dalla Corte di Cassazione, però quello che ho sostenuto fin dall'inizio, cioè dal primo grado, è che non esiste, non sussiste il reato di imbrattamento laddove il muro è interessato dall'intervento dello street artist o del writer sia stato già precedentemente imbrattato e quindi ci siano già delle scritte che l'hanno insozzato o deturpato. L'intervento del writer in quel momento diventa un intervento abbellitivo e non certo di imbruttimento, anziché di imbrattamento. Ma vale anche scritta su scritta? Cioè, perché a volte ci sono delle scritte incomprensibili che sembrano più dei graffiti osceni, però invece sappiamo che nel linguaggio dei writers hanno un loro significato. Nel caso del tuo assistito, che disegno era stato fatto? Stava disegnando uno scorcio dei Navigli di Milano, uno scorcio notturno, quindi stava facendo proprio un disegno con un'apprezzabilità, diciamo, estetica. Quindi un paesaggio godibile per chiunque, un disegno comprensibile, esatto, per chiunque. Esattamente. Invece quando parliamo di firme e quindi di tag. È vero che c'è una ricerca stilistica ed è vero che per i writer non costituiscono un mero vandalismo, ma spesso anzi un'evoluzione, è la prima forma di arte su un muro, no? E poi si evolve nei disegni, però è già più difficile farlo passare, anche se nel 2012 ero riuscito a far passare anche questa tesi al Tribunale di Milano, cioè che le tag throw up, che sono la prima evoluzione delle tag, cioè quelle scritte che vediamo in giro un po' più bubble, più gonfie, sì, certo, con gli interni colorati tondeggianti, bubble, esatto, è bellissimo. Ma Domenico, sei bravissimo avvocato, stai vincendo tutta una serie di cause. Ho fatto i primi tre precedenti in materia a livello italiano e adesso io fino adesso ne ho difesi una ventina e sono riuscito a farle assolvere, però ho ricevuto anche le prime due condanne ultimamente, ecco, non è che ma sono solo rose e fiori. Volevo capire una cosa, che cosa si intende per un muro già imbrattato? Cioè basta che ci sia un segno piccolo, basta che ci sia un'unica scritta, basta che sia scrostato? Lo dico perché uno fa il writer e dice aspetta un attimo, faccio due scritte brutte e poi dopo... Per esempio. Come ho sostenuto davanti al giudice, come sostengo tutto, basta prendere la Treccani, aprirla sulla parola imbrattamento e capire cosa significa. C'è un muro precedentemente insozzato, insudiciato, così dice la Treccani. Cioè un muro non che integro, è naturale che un muro che sia completamente bianco, ben in vista... tutti si aspetterebbero che se uno va a scriverci sopra quello sia solo imbrattamento. Ma normalmente i writers fanno questo, perché a me questa cosa mi incuriosisce. Qual è la mentalità? Sceglie un muro. Come si sceglie? Proprio davanti casa, vicino a casa mia, c'è il retro di un cinema dove c'è un bel disegno, c'è raffigurato degli attori del cinema, c'è Clint Eastwood, per esempio. E nessun writers è mai andato. Io ho fatto una mostra in quella via. Ecco, bravo, vedi. Quella via perché. È una piccola via, via Orseo. Adesso stai parlando in veste di writer, direi. Ti puoi sbilanciare, esatto, che prima hai detto sono in veste d'avvocato. Però quello lì non è mai stato intaccato da nessun writer, da nessun imbrattatore di muri. Perché, per esempio? C'è una specie di codice. In realtà Charlie Chaplin lì... Charlie Chaplin, Staglioglio, se gli hanno messo dei baffi. È vero, c'è stato un piccolo intervento. Qualcuno ha voluto fare il burrone. Sei informatissimo. No, vabbè, però solitamente il principio del writing, proprio basilare, fin dalle origini a New York, è sempre stato il rispetto, ma è un rispetto che si estende non solo a quelli appartenenti al movimento del writing, ma era un rispetto che si estendeva anche a tutte le opere d'arte. Addirittura il writing comunque degli anni Ottanta, che è molto diverso da quello di adesso, richiedeva anche il rispetto delle forme di lavoro altrui. Per esempio non si andavano ad imbrattare furgoncini o strumenti di lavoro di altre persone. Invece ultimamente, comunque negli ultimi 10-15 anni, ha avuto una deriva vandalica molto più evidente. Ci sono writer appunto che non hanno l'intenzione di una ricerca stilistica o artistica nelle loro corde, ma in realtà cercano semplicemente di estendere il più possibile il loro nome in modo vandalico. E come mai è cambiato questa sorta di codice etico? Sono curioso di capirlo, perché in realtà questo codice non è mai stato scritto. Si certo. Le radici in principi della Zulu Nation, quindi se vogliamo ci sono delle tracce scritte nella musica, ecco, ma in realtà non è mai stato scritto un codice etico, un codice deontologico. No, no, è chiaro. Mi chiedevo se i writer invece che seguono questo codice etico, se in qualche modo fanno la guerra a coloro che non lo seguono. Sì, in effetti è un ambiente molto conflittuale, perché ci sono, soprattutto tra generazioni diverse, ci sono scontri. È naturale che poi un writer che ormai ha 40 anni e figli non vada a fare a botte per strada con un ragazzino di 15 anni che diventa. Intendevo anche una guerra fatta di scritte, non per forza di rimboccarsi le maniche e tirare degli schiaffoni. Ci sono anche un po' di reazioncine, devo dire, all'SMS al 349-238-6666. C'è chi scrive: se il muro è privato non lo tocchi, e poi prosegue con una frase oscena che non riporto. C'è una distinzione che nel codice dei writers che si può fare tra muri delle abitazioni e muri, non so, il muro di una ferrovia, il retro di un qualche palazzo abbandonato, che in genere bello non è, oppure fanno... Non credo si possano fare distinzioni di questo tipo, semmai su palazzi storici e su edifici di culto, quella la differenza si è sempre tenuta in conto. Non si può dire sicuramente che abbia torto chi scrive che se quel muro è mio. Secondo me qualche ragione ce l'ha, perché sai, uno muro di casa sua ci fa quello che gli pare. Diritto di proprietà è uno dei principi basilari del nostro ordinamento. Di certo il diritto di espressione non prevale sul diritto di proprietà, pertanto non è ammesso. Qua parla proprio l'avvocato, Carlo, hai sentito com'è? Qua è proprio l'avvocato, il writers è messo in un angolo. Ma in realtà è anche interessante, perché anche il muro privato, se verso l'esterno è un muro orrendo, sporchissimo, pieno di segni, c'è da chiedersi se forse un disegno non lo migliore. Poi giustamente uno dice: è privato, è mio, faccio quello che voglio. In realtà, siccome da verso l'esterno non fai quello che vuoi, perché non è che sei tuo, puoi disegnarci quello che vuoi. Quindi di nuovo devo precisare una cosa, che le sentenze di assoluzione che ho ottenuto a favore appunto di disegni che sono state scritte, state effettuate su dei muri già imbrattati, comunque erano pubblici, muri pubblici di enti pubblici, o erano muri delle Ferrovie dello Stato o del Comune di Milano o di altri enti. Pertanto diciamo Ferrovie dello Stato, ormai Trenitalia, sul pubblico non vorrei averti preso in fallo. Cosa vuoi dire, Carlo? Stava parlando di enti pubblici, in realtà ormai Ferrovie dello Stato è un pezzo privatizzato, ma stavo scherzando, vai pure avanti, scusa. Sì, ma solamente per intenderci che non stiamo parlando di abitazioni private o comunque certo, che sia facilmente identificabile il proprietario, ecco, parliamo magari anche di muri, il muro di Man Invisible, cioè il muro in questione della sentenza di Cassazione, era un muro sotto un sottopasso ferroviario. È il classico muro abbandonato, il classico muro diciamo pubblico abbandonato, pieno di scritte spesso oscene, e che in questo caso la Cassazione ha detto: no, scusate, qua almeno questo ha fatto un disegno, la situazione è migliorata. Forse, ed è per questo che a noi questa sentenza ci è piaciuta, il che non vuol dire liberi tutti, no. Questa è un'altra questione. Grazie Melillo, intanto anche in arte frode. Grazie per essere ciao, stato grazie con mille noi. Anche a volte è meglio un disegno piuttosto che Franco ti amo tantissimo con 6 errori di ortografia anche. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, di nuovo ben ritrovati da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Buona domenica. È bella la storia dei writers. A me è piaciuta molto questa notizia perché è una figata, diciamolo chiaramente. Perché hai detto bene tu, Franco ti amo, fa schifo. Un bel disegno come quello di cui parlava prima Frode, cioè un paesaggio in naviglie, cioè, abbellisce, c'è niente da fare. E quindi ha fatto bene il giudice a dire che quella lì non è un reato. Mi dispiace per tutti quelli che sono contrari in generale. In generale ai disegni degli altri. Ai disegni degli altri. Davide da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Esinolario. Dunque, la risposta al personaggio della settimana. Sì, il luogo dove si svolgerà il congresso mondiale di Wikipedia. Sì. Esinolario, paesino che ha vinto contro grandi città come Manila. E attendavamo per farle raccontare il più possibile questa notizia. Perché Esino Lario in effetti ha battuto la concorrenza di città come Manila, per esempio, e subentrando a città che in passato hanno fatto lo stesso, ospitato lo stesso evento, come Londra, Hong Kong e anche Mexico City. Ma è pazzesco, pensate, questa ed cittadina è la capitale mondiale, diventerà anzi la capitale mondiale di Wikipedia. E perché quindi... esattamente come funziona? Si troveranno lì tutti quelli che hanno ideato, che ci sarà il raduno mondiale di Wikipedia dal 21 al 28 giugno in questo paese di 760 abitanti. Voglio ricordiamo quanti, un paesino a strapiombo sul lago di Como. Bello. È un posto stupendo e quindi siamo molto contenti. E per questo dicevamo che avrà una bellissima pagina di Wikipedia. Grazie Davide, complimenti. Grazie a voi, grazie a Isino Lario ancora di più. Giusto, giusto. E si gode i biglietti del MUDEC. Ok, adesso, perché saranno mille i redattori, quelli che si troveranno a Esino Lario per fare il raduno di Wikipedia, ma erano mille anche quelli dei Foo Fighters. Buongiorno e buona domenica, Fabio Zaffagnini. Ciao Fabio. Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Fabio. È lui l'organizzatore, l'ideatore di questa favola dei Foo Fighters, perché in principio furono... In principio furono i Foo Fighters, furono i, Foo Fighters. I mille. Poi furono i mille che chiesero ai Foo Fighters di venire a suonare a Cesena e ne abbiamo parlato tanto e riusciste a centrare l'obiettivo, ma la favola va avanti Fabio. Sì, perché dopo il concerto dei Foo Fighters abbiamo detto vabbè, adesso cosa facciamo? E quindi ci siamo un attimo messi a ragionare su quello che è successo, cioè che milioni di persone hanno visto un video in cui mille persone suonavano contemporaneamente un brano, però poche persone relativamente hanno visto dal vivo come suonano mille persone. Quindi abbiamo deciso di esplodere questo concetto e trasformare il tutto in un concerto vero e proprio, quindi... Il 24 luglio allo stadio di Cesena organizzeremo un concerto intero in cui, ripercorrendo la storia della musica rock, mille musicisti si troveranno tutti insieme a suonare per un pubblico. Io ti ringrazio non oso perché pensare ai camerini. Ti ringrazio perché soprattutto per quello, ma anche perché non immaginavo potessi farmi un regalo così per il mio compleanno, perché è il giorno del mio compleanno, quindi dovrò cercare ottimo di esserci assolutamente. Ottimo, ottimo, ti aspettiamo e faremo una grande festa. Potresti andare a suonare perché ho visto che i casting sono ancora online, è praticamente tutto esaurito, avete trovato tutto, manca qualche violinista, è giusto? Esatto. Vabbè, casino, trovato... il violino è un po' difficile. Ale, ce la fai col violino? Io la chitarra pochino. Pochino. Adesso cominciamo a cercarli nei conservatori, però sì, abbiamo trovato i chitarristi, i bassisti, i batteristi, i cantanti, i tastieristi. Abbiamo trovato anche 30 suonatori di cornamusa che suoneranno però... con noi. Ma perché come devono essere come deve essere composto questo mega band? Allora, ci saranno 250 componenti per ogni strumento, tra chitarra, basso, batteria e voce. Poi ci sono 20 tastiere, 30 cornamuse e stiamo cercando 50 violini. Così, giusto per non farsi mancare niente. Dici, sai cos'è? Ma forse mancano 50 violini. Cioè voi questo lo state facendo per ribadire il concetto di andare a tempo, no? Nella musica in generale. Perché se pensa che se solo ognuno sbaglia di una frazione di secondo succederebbe un però casino. Su mille secondo me è forse la volta buona che potrei esibirmi anch'io come musicista che non se ne accorgono. Dici non che posso no, venire con, no. Con un finto violino o un finto triangolo vengo. Sì, vieni. Ma, che no, volevo chiedere una cosa. Quando si fa un casting per mille persone, mi chiedevo se siete anche di manica larga, nel senso che appunto che prendete anche chi non è proprio il più bravo del mondo, oppure no, comunque severissimi. No, l'idea è quella della condivisione. Quindi prendiamo professionisti, anche dilettanti, anche musicisti alle prime armi. Quelli, quelli più bravi devono, hanno uno spartito più complicato, più vicino al brano originale. Quelli più scarsi hanno invece una versione semplificata, in modo tale da permettere davvero a tutti di suonare. Perché questo poi è il vero progetto. L'organizzazione, pensavo dicessi, quelli bravi sono amplificati, gli altri sono in fondo e non li sente nessuno. È come al coro della scuola, quando ti dicevano tu muovi solo la bocca. Esatto, e vai dietro. Allora, no, è un segreto che ci teniamo per noi. Però ci tengo a sottolineare questa cosa che hai appena detto, perché è molto importante, che in realtà è un'operazione molto più legata alla condivisione che non al... a diventare organizzatore del più importante concerto del mondo, dove lo dice storia, ci mettiamo in qua, Certo, però la cosa secondo me molto bella è il fatto di condividere, il fatto di mettersi e dire vabbè, io ne so fare solo un pezzo, però ho la possibilità di andare sul palco insieme agli altri 999 che sono più bravi di me. Quindi complimenti. E le prove come le farete? Allora, adesso tutti i musicisti hanno un sacco di tutorial, perché devono preparare 16 brani, sì, hanno un sacco di tutorial da preparare a casa, poi dopo a ridosso dell'evento ci saranno 3 giorni intensissimi di prove. Pensa che casino! Il direttore d'orchestra e i responsabili di ogni strumento, che chiamiamo guru, saranno lì a mazziare tutti i vari musicisti che si sono presentati. Bene, benissimo. Bene, tutti pronti per bello. Il più grande concerto della storia. È il 24 luglio del 24 luglio prossimo a Cesena. Grazie Fabio Zaffagnini. Devo dire solamente una cosa, da un SMS che è arrivato, vorrei sapere il nome, direi, del nostro avvocato di prima, perché ho la saracinesca del negozio da imbellire. Mi sembra un bellissimo Domenico messaggio. Domenico Melillo, esatto, in arte frode. Andate a firmare la petizione perché apra a Milano il negozio tutto gratis che noi stessi avevamo annunciato, ma c'è un problema con Rete Ferroviaria Italiana che non vuol cedere e dare gli spazi. Andate su change.org per sostenere questa iniziativa di un negozio che dona tutto gratuitamente senza dover pagare nulla, oggetti a cui diamo una seconda vita. È tutto. Giusto. Per oggi un ringraziamento a Andrea Piana, Lorenzo Nespoli, Claudio Schiattone, Peter Bescapa in regia. Ciao a tutti da Alessio Maurizio. E da Carlo Gabardini e anche a chi ci ascolta in podcast.